Ad alta voce, Ferdinando Bruni legge L'onda dell'incrociatore di Pierantonio Quarantotti Gambini. L'indomani Ario era appena alzato, allorché Berto venne in cerca di lui sul suo pontone, come non accadeva mai. «Fai presto», gli sussurrò guardandosi attorno. «Vieni con me». Montarono nel caiccio e uscirono per essere soli in mezzo al mandracchio. Appena furono in quel largo specchio d'acqua, lontano dai pontoni e dai trabaccoli, Berto, che aveva vogato sin là silenzioso e accanito, lasciò il remo e si girò sul sedile. «Lo sai?» disse, «che questa notte l'ho veduta». Ario ebbe un sussulto. «Chi?» «Non essere scemo», lo fissò Berto. «Hai capito quello che voglio dire? L'ho veduta. Tutta». Ario non rispose. Si sentì chiusa la gola e ingoiò due o tre volte. «Parli di Lidia?» osò infine. «Era lei?» Sebbene la ragazza fosse sorella di Berto e niente per lui, gli parve che egli lo avesse offeso nel più intimo, vedendola in quel modo. Continuando a fissarlo con due occhi spalancati e seri, Berto annuì. «Ah, era Lidia», fece Ario come intontito e guardò via. La brezza, increspando il mare, spingeva il caicio contro la grande boa che galleggiava rossa e bianca ai limiti del mandracchio verso il bacino della lanterna. Ario guardava sempre sull'acqua, d'un colore azzurro cupo, che in quel punto era più viva e più pulita, malgrado qualche resta di cipolle, che non sotto le rive, tra i trabaccoli, i rimorchiatori e le maone, e si teneva pronto con le mani ad ammortire l'urto contro la boa. «Racconta», mormorò, sebbene Berto stesse già cominciando. Ciò che ascoltò quel mattino, lì sul mare, mentre il sole gli scottava le tempie e il caicio sobbalzava spinto verso la boa, Ario non poté dimenticarlo mai più. Anzi, da quel momento, fu come se avesse visto e vissuto lui tutte le cose che Berto gli raccontò. Era lui, non Berto, immerso nel sonno nel camerone comune della Virtus, quando un fracasso lo risvegliava. «Luce! Luce!» Non era la solita voce da ubriaco, ma un grido da pazzo. Con la fronte madida si rizzava a sedere, scendeva dal letto e gli pareva, nel buio, che la stanza gli turbinasse all'intorno. Mentre quella voce continuava a urlare, egli stentava a ritrovarsi. Quella che cos'era? Una parete? No, il letto di Lidia. Non sapeva più in quell'orgasmo ove cercare l'interruttore. Poi, ed era davvero come se quei momenti li avesse vissuti lui anziché Berto, si rivedeva con una candela in mano davanti al letto di Lidia, mentre l'uomo, buttate all'aria le coperte, le alzava la camicia e gli faceva luce, avvicinandosi sempre di più con la candela. «Qui, qui sotto!» gli urlava l'ubriaco, afferrandogli il braccio e costringendolo a illuminare Lidia tanto vicino che egli temeva di scottarla. Poi l'uomo tornava a lottare per immobilizzare la fanciulla che, senza una parola, coi denti serrati, si divincolava, buttandosi ora su un fianco, ora sull'altro, e stringeva le cosce. «Qui sotto, qui, e tu, maledetta, lasciati vedere, se non vuoi che ti scaraventi subito fuori di casa!» La madre ormai aveva cessato di frapporsi. Rotolata in un canto, dopo aver lottato con l'uomo, si era rialzata con gli occhi dilatati e bianca, come la camicia che aveva indosso, si teneva con la schiena contro la parete, sconvolgendosi e torcendosi i capelli, sempre più lentamente. A un tratto alzò un grido. «No, non toccare la mia creatura! Non toccarla!» e fece per slanciarsi contro l'uomo. Ma nello stesso istante Berto la vide come abbassarsi, farsi più piccola e poi afflosciarsi sul pavimento. «Fatti vedere!» urlava l'uomo lottando contro Lidia, che serrava le cosce e si torceva con improvvisi balzi e con un ansito crescente. «Sei ancora a posto?» A un tratto Lidia non lottò più. Le sue membra, tutte libere, la camicia strappata era sul guanciale, si sciolsero, si abbandonarono. Restò supina, come spossata, con la gola e il capo riversi e le palpebre abbassate, e quell'ansito le sollevava e riabbassava il seno, sempre più adagio. L'uomo, imponendo di nuovo a Berto di avvicinarsi con la candela, le mise subito le mani tra le ginocchia. Lidia non reagì, lasciò fare. Anzi, appena toccata, sembrò a Berto che schiudesse le cosce quasi da sola. «Se sei ancora come si deve», mormorava l'uomo più calmo, toccandola con le dita grosse e rossastre e curvandosi barcollante per esaminarla, «questa è sempre casa tua. Ma se non lo sei più, prendi una pietra e annegati in sacchetta!» Riversa e ad occhi chiusi, col viso voltato sul guanciale e il petto ancora ansante, la fanciulla giaceva come l'avevano costretta, a gambe divaricate, in una posizione in cui Berto l'aveva spessa veduta quando nuotava sul dorso, aprendosi tutta, senza più vergogna, all'esame dell'uomo e agli occhi di Berto, sotto la luce della candela che suscitava ombre e bagliori. Soltanto a un certo punto, quando l'uomo portò l'esame più a fondo, Lidia si torse di colpo, riaprendo gli occhi e le sobbalzarono i seni. «Ai!» gridò. Poi rimase a guardare verso l'alto, con due pupille fisse. Ma sembrava non vedesse, come se avesse voltato quello sguardo entro di sé. Dopo un altro guizzo che la diede, scottata da una goccia di cera, Berto incontrò un istante il suo sguardo. Quelle iridi, fissandolo spalancate, lo assorbirono tanto nel profondo che gli si sentì girare il capo e non riuscì nemmeno a comprendere, tanto quegli occhi gli apparvero trasfigurati e distanti, se ella lo riconoscesse. «Va bene», disse l'uomo lasciandola. «Ma non dimenticarti di questa sera. Ricordati che ti spacco la testa io prima che...» Fatti alcuni passi, si voltò e tornò indietro. «E povera te!» alzò la mano. «Se ti lasci soltanto portare a bordo, dillo pure a Eneo!» Un urto violento colpì Ario mozzandogli il fiato. Sentì un dolore alle reni mentre Berto gli urlava qualcosa e l'aria vibrava sopra di lui. Passato quello stordimento, comprese. Avevano cozzato contro la boa. Alcuni gabbiani, sorpresi dall'urto, si levavano a volo con gridi rauchi. Poi si stupì che fossero trascorsi pochi momenti da quando Berto aveva cominciato a raccontargli. Il caicio, spinto dalle onde, aveva percorso nel frattempo solo poche bracciate di mare, sin lì alla boa. La mattina era radiosa. Il sole splendeva dal cielo tutto azzurro e la brezza giocava ad Ario tra i capelli, ma egli socchiudeva gli occhi con fastidio. Non riusciva a tornare all'aperto. Qualcosa di lui era rimasto nello stanzone della Virtus, tra i bagliori e le ombre sollevati dalla candela davanti al letto di Lidia. La rivedeva come era rimasta dopo che l'ubriaco s'era allontanato per coricarsi. Immobile sul pagliericcio, quasi tramortita, con le pupille dilatate. Era restata così, sotto gli occhi di tutti, senza più pensare a ricoprirsi o a rimettersi sotto le coperte, sinché nello stanzone tornò il buio. E, anche nell'oscurità, il ragazzo che l'aveva guardata dal proprio letto tutto quel tempo, quasi incredulo di poterla osservare liberamente così a lungo, la immaginava nuda e ferma sul pagliericcio, quasi esanime, se il suo corpo abbandonato non gli fosse apparso, anche in quell'immobilità, sin troppo vivo. «Non è più come anni fa, quando l'abbiamo processata e spogliata dietro la lanterna», concluse Berto. «Allora era una bambina, lunga e liscia come un remo. Dovresti vederla com'è adesso». rosso in viso, lo guardava con gli occhi accesi e inquieto. Sembrava volesse parlargli ancora. Ario non seppe sostenere quello sguardo. Abbassò le pupille, quasi cercasse qualcosa nella sentina, ove, ad ogni sobbalzo della barca, oscillavano nel mezzo due dita d'acqua con in fondo alcuni sassolini bianchi e una foglia morta. Poi guardò via, sul mare. Gli cresceva adesso un impeto di ribellione contro l'ubriaco e contro Berto. Quello che avevano fatto a Lidia, di notte, con la candela accesa nel buio del camerone, non cessava di apparirgli mostruoso. Si sarebbe gettato, se fosse stato presente, al collo del padre. L'avrebbe strozzato. E avrebbe spento quella candela a Berto e l'avrebbe buttato fuori. Ma rivedeva, mentre lo sconvolgeva quel furore, Lidia distesa nuda sul letto. E a quella vista provava, stranamente, un'impressione fresca, quasi dissetante, eppure calda. Avresti dovuto vedere come si divincolava. Sentì di nuovo un tuffo al capo e un'arsura in gola. Sì, la vedeva, la immaginava. Ricordava le sue cosce colme come gliele aveva viste con sorpresa quell'estate al bagno. E gli sembrava mostruoso, di nuovo, che a guardarla, a osservarla mentre si divincolava senza niente indosso, fossero stati Berto e il padre. Voleva troncare quel discorso, subito. La immagino, gli sfuggì invece. Evitò tuttavia di guardare Berto in faccia. Non puoi immaginarla se non l'hai veduta. Io posso immaginarla soltanto ora, perché l'ho veduta stanotte. Tu... Ario si sentì il sangue alla testa. Sì. L'avevano veduta ed esaminata in quel modo Berto e il padre. Ma tutto ciò era mostruoso. Era una pazzia. Come Berto non lo capiva? Non poteva più ascoltarlo. Aveva il cuore in gola. «Basta!» fu sul punto di gridare. «Hai capito? Basta!» «Tu non puoi! Che cosa non posso?» Rizzò il capo e guardò Berto negli occhi. «Tu non l'hai vista, dicevo». Non puoi immaginare com'è una donna. Ci fu una pausa e s'udiva soltanto il mare sui fianchi del Caicio. Chissà, pensava Ario, come Lidia si sarà sentita bruciare dalla vergogna stamani al risveglio. Gli pareva che non avrebbe il coraggio di uscire come gli altri giorni sul pontone, che avvamperebbe al solo pensiero di incontrare gli occhi del padre e quelli di Berto. La immaginava singhiozzare, prona sul letto, col viso affondato nel guanciale, sola nello squallore del camerone. «Sembra», aveva ripreso Berto, «che ieri sera col buio Eneo l'abbia portata con sé a bordo dell'Empedocle». E lo fissava serio, con gli occhi spalancati. «Ma non riesco a capire», soggiunse, «chi può aver fatto la spia». Qualcuno stanotte deve aver detto tutto a papà. Ma chi? Ario si sentì salire un calore sulle guance. Bisogna sviare questo discorso, pensò. E mormorò, l'hai vista, dicevi, tutta. Ma se ti ho raccontato, cosa vuoi che potessi vedere di più? Ricominciò tuttavia a descrivere, diffondendosi in particolari che prima, nella fretta, aveva scordati. Ario, via via che gli parlava, sentiva crescere di nuovo quell'impeto di ribellione. No, era troppo. Non riusciva più a stare fermo sul sedile. L'ubriaco e Berto erano stati due pazzi mostruosi. Provava, tuttavia, per ciò che stava ascoltando, un'attrazione invincibile, un fascino oscuro, per cui avrebbe desiderato che Berto raccontasse ancora e ancora, pure soffrendone. «Ma non ti vergogni!» urlò a un tratto balzando dal sedile. Berto smise. «Vergognarmi?» domandò. «Se lo faceva papà per sorvegliarla e correggerla, per il suo bene, come ha detto stamane. E poi io ubbidivo, dovevo ubbidire». Non ubbidivi, lo facevate in due, eri contento di farlo. Berto, sempre fermo sul sedile, alzò la spalla e i suoi occhi parvero dire: Ebbene? E se fosse così? Hai tradito Eneo, gridò allora Ario. Ti sei messo contro Lidia e contro Eneo. Ma che? Protestò Berto, interdetto. Io parteggiavo per Lidia, mica per mio padre. Ero con lei, contro papà. Parteggiavi per Lidia, in quel modo. Ma se mi hai raccontato, insomma, lo interruppe Berto, ma dall'espressione pareva sorpreso. Lo sai bene che a me fa piacere che Lidia vada con Eneo. Dunque, cosa fece Ario? Allora è per questo, osò, sentendosi portare via da una ventata che gli travolse i pensieri e avvampò fino ai capelli. Che hai fatto la spia, eh? È per questo che hai raccontato a tuo padre che Eneo ha portato Lidia sull'Empedocle. Berto era balzato in piedi. L'uno di fronte all'altro si guardarono durante un attimo interminabile, dritto negli occhi. Poi Ario sentì un colpo duro alla mascella e barcollò, precipitò all'indietro. Quando si rialzò, facendo traballare il caiccio, Berto era ancora in piedi nello stesso punto. «Imparerai!» sibilava, guardandolo con due occhi piccoli sotto la fronte aggrondata e protesa. «Imparerai Eneo, piuttosto, a fidarsi di te quando saprà che hai fatto la spia e che questa notte...» Si trovarono l'uno sull'altro, avvinti, aggrovigliati, coi denti stretti e coi toraci ansanti. Lottavano in piedi, nonostante i sobbalzi del caicio. «Provati!» sibilava Berto, «a raccontarlo a Eneo!» «Sì, sì, glielo dirò, ti farò cazzottare!» «Se sapesse», pensava intanto, «che a fare la spia è stata mia madre, se l'avesse veduta questa notte sul terrazzo in attesa dell'ubriaco!» Avvinghiati cercavano sempre nuove mosse e sorprese e a tratti, raggiunto un equilibrio, restavano, pur tendendosi entrambi nello sforzo di soverchiarsi, del tutto immobili. Si stupivano l'uno della forza dell'altro. Era da molto, da anni, che non si picchiavano e non lottavano più. Si ritrovavano ora muscolosi, quasi adulti, e cominciarono a provare, avvinti in quel modo, un piacere e un'ammirazione reciproca. «Ti farò cazzottare», ripete lentamente, nell'ansito, Ario. E gli afferrò l'orecchio coi denti. Berto riuscì, in uno sforzo disperato, a travolgerlo, ma perdettero l'equilibrio e piombarono entrambi in acqua.